Oggi incontriamo Fawzi Ismail, il direttore dell'Alard Festival che a Cagliari ogni anno porta il cinema palestinese ed arabo. Quest'anno siamo alla 20ª edizione. Buongiorno Fawzi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quest'anno l'Alard sarà diverso dagli anni precedenti? Sicuramente questa edizione arriva in un momento drammatico per la Palestina, per i palestinesi, per tutti quanti, e il festival sicuramente ha anche risentito del riflesso di questi effetti dell'aggressione sionista contro la popolazione palestinese di Gaza. Basta ricordare che di solito moltissimi registi di Gaza partecipavano, si scrivevano al festival, e quest'anno purtroppo abbiamo avuto quasi nulla da Gaza. Uno, perché moltissimi non sono riusciti né a scriversi per mancanza di, naturalmente sotto il bombardamento non è che si pensano a partecipare al festival. E altra situazione, purtroppo due dei registi che ci hanno contattato anche prima dell'aggressione non hanno potuto praticamente partecipare a questa nostra edizione perché sono morti e perché sono stati assassinati dall'esercito israeliano, e quindi il nostro festival si risente anche questo. E noi per questo facciamo anche un omaggio a questi registi, a questi giornalisti che sono moltissimo, che hanno perso la vita, stati uccisi. Quindi ecco, l'ennesima edizione del festival risente anche queste condizioni. Quando avete chiuso le iscrizioni per partecipare? Chiusa, praticamente doveva essere chiusa il 30 di novembre, e l'abbiamo dato la disponibilità anche per registi Gazawi fino anche alla metà dicembre, però purtroppo la situazione è diventata sempre peggio. Quindi di solito le iscrizioni vengono negli ultimi mesi, quindi da ottobre e novembre non abbiamo avuto la possibilità di avere iscrizioni da Gaza. Ma due o tre film in programma su Gaza ci sono? Sì, sicuramente sono, però sono dei registi non di Gaza, sono registi internazionali, c'è un regista italiano, ci sono altri registi che non sono di Gaza, quindi cioè, di fatto ecco, Gaza sarà presente nel nostro festival anche in modo abbastanza chiaro. Faremo anche un workshop dedicato alla striscia di Gaza e agli avvenimenti di questi giorni, questi mesi. Sarà presente anche il regista Roland Ollier, il regista del Carro Armato all'Olivo, un film che ha ricostruito tutti i passaggi storici fino al momento attuale, pregevolissimo. Sì, sarà presente, così ci ha promesso, vediamo un attimino all'apertura domani della nostra 20ª edizione. Quindi sono 20 anni. In 20 anni c'è stata una evoluzione nel modo in cui i registi hanno creato le loro opere, documentari o fiction che siano? Assolutamente sì, stiamo parlando di 20 anni di storia del festival, che abbiamo visti diversissimi registi e registe che hanno trattato la Palestina con diversi aspetti, diverse angolazioni, punti di vista anche, e molte tematiche. Sicuramente abbiamo visto e cambiato anche le tematiche e il modo di trattare la Palestina. Nelle prime edizioni che abbiamo visto 20 anni fa, i registi, in particolar modo palestinesi e arabi, cercavano di dare una impostazione alla storia, alla narrazione vera della situazione in Palestina, narrazione storica, che sicuramente per colmare un vuoto che nell'Occidente che avevano solo a disposizione la narrazione sionista. Man mano che questo lavoro l'hanno fatto in Europa, ultimamente vediamo che stanno trattando di più gli aspetti della vita di tutti i giorni di palestinesi e delle storie anche singolari, delle storie anche personali, e quindi questo cambiamento l'abbiamo notato. Un esempio dico, anche se si parla della Nakba o si parla dei campi profughi, sicuramente come temi sempre di attualità, però vengono trattati in modo angolazioni diverse dal passato, che è anche molto interessante, molto anche efficace di rappresentare questi avvenimenti. La vita del campo profughi, l'influenza del Nakba, mentre prima si parlavano, cioè, della Nakba storicamente come è avvenuta, Oggi i film raccontano le conseguenze dopo 75 anni di occupazione, gli effetti appunto della Nakba alle nuove generazioni. E questo sicuramente c'è un cambiamento enorme. Tra l'altro si è cambiato anche la tecnologia, nel senso oggi molto più semplice fare un film, molto più semplice anche per noi di sottotitolare un film che prima lo facevamo in modo impegnativo, difficile e costoso. E oggi c'è la tecnologia che ci dà una mano, nel senso di essere molto più efficace, con meno tempo. E in questi 20 anni è cambiato anche il pubblico? Sicuramente sì. Mentre all'inizio mi ricordavo che il pubblico era di più, sicuramente di persone già informate o già sapevano della Palestina, oggi no, oggi vediamo nelle ultime edizioni che è il pubblico sempre più giovane, persone che magari non hanno mai avuto contatto, che non conoscono la Palestina a modo diretto e quindi che hanno voglia di sapere, di conoscere, e questo fa molto piacere. Questo tra l'altro è l'obiettivo del nostro festival, è quello di raccontare la Palestina, raccontare gli avvenimenti, raccontare anche la storia di uomini, donne, bambini che vivono lì, diamo nome e cognome, non in modo generico. Direi che l'ultima edizione, che è stata anche un'affluenza abbastanza buona del pubblico, si prevede anche da domani che il pubblico affolla la sala che ha a nostra disposizione. E poi è anche un altro importante, che sicuramente il pubblico di giovani, 20 anni fa magari molti di loro erano bambini e quindi anche noi eravamo più giovani di 20 anni, e quindi il pubblico è cambiato. È stato diverso l'approccio artistico dei registi dal momento in cui Gaza è diventata un'enclave chiusa? Allora, sicuramente il cambiamento è questo, che mentre, come dicevo prima, raccontano l'avvenimento in modo storico, tipo è chiusa perché è chiusa, come è chiusa, no? Con il muro, con i checkpoint, anche a Gaza, tipo il valico di Rafah, il valico di Erez, come è chiusa anche dal mare, cioè dalle navi da guerra israeliane che bombardano le spiagge di Gaza oppure impediscono, ammazzano, spesso hanno ucciso pescatori, no? E mentre, prima raccontavano questo, ultimamente raccontano questo embargo, questo assedio che dura appunto da parecchio tempo contro la striscia di Gaza, che effetti produce, diciamo, a livello personale, a livello familiare, a livello della vita di tutti i giorni. Per esempio, di uno studente cosa comporta questa chiusura, quindi la difficoltà di movimento e la facoltà anche di avere moltissimi giovani, giovanissimi, anche hanno avuto delle borse di studio all'estero per poter studiare, anche giornalisti, anche cinema, per esempio, non sono potuto andare perché erano bloccati da questo assedio, da questo embargo israeliano contro la striscia di Gaza. Effetti anche sulle cure, perché non tutte le medicine possono entrare a Gaza perché deve avere l'ok dall'autorità israeliana. Poi abbiamo per esempio anche l'effetto della malnutrizione per mancanza di cibo. Questo tutto prima di questa aggressione dopo il 7 ottobre. Esiste un film che possa rappresentare la precedente vita dei palestinesi? In questa edizione no, però nel passato sì, l'abbiamo visto, c'è la vita che rappresentava le persone sia in Cisgiordania che nella striscia di Gaza, e quindi c'era meno chiusura, però adesso c'è una chiusura completa, quindi c'è una vita molto differente. Sicuramente vediamo l'importanza anche della situazione attuale in Cisgiordania, che abbiamo diversi film che rappresentano anche la vita terribile che stanno vivendo anche i palestinesi in Cisgiordania, e che anche se non si parla nella formazione, perché giustamente danno più spazio a quello che a Gaza quando se ne parla proprio, però la situazione è anche molto drammatica in Cisgiordania, cioè i coloni praticamente sono senza freni, senza controllo, aiutati dall'esercito israeliano che stanno aggredendo la popolazione della Cisgiordania, e non a caso che ieri il governo israeliano fascista praticamente ha decretato che nel mese di Ramadan, che sarebbe tra una quindicina di giorni, che i fedeli musulmani non possono recarsi alla moschea di Gerusalemme, alla Al-Aqsa, per la preghiera, non solo quelli della Cisgiordania, ma anche sono i palestinesi del 48 che praticamente risultano, tra virgolette, con passaporto israeliano, oppure devono essere trattati come gli israeliani. Quindi questa è la discriminazione, il razzismo puro, e anche questo contro ogni legge internazionale, perché questo praticamente la libertà di culto deve essere garantita per tutti. Ecco, questo si aggiunge a tutti i crimini che stanno commettendo gli israeliani in questi giorni. questa 20ª edizione di Allard c'è un numero inferiore di film in concorso? No, sono arrivati una 80ina di film e sicuramente sono meno dell'anno scorso, appunto per causa anche di questa aggressione israeliana, perché sia palestinese, cioè, come diceva, c'è Giordania, ma anche alla diaspora in generale, sicuramente pensavano ad altro, quindi anche l'iscrizione non è stata semplice e facile. Però no, noi la scelta di fare questa edizione, di selezionare 22 film che sono in concorso in tre categorie, la categoria di documentari lunghi, lungometraggio, documentari e cortometraggio, e poi abbiamo la cortometraggio di fiction. Abbiamo scelto di fare queste tre categorie e di scegliere meno film per anche favorire la discussione, il dibattito con i registi e dare spazio appunto all'approfondimento culturale, scientifico, cinematografico del festival. Quindi per questo, purtroppo a volte siamo costretti a non selezionare dei film validi, importanti, interessanti per tempo che non possiamo proiettarli tutti, e questo è un limite non solo nostro, penso che tutti i festival che non possono proiettare tutto quello che si vorrebbe. Appunto, e poi tra l'altro abbiamo oltre i 22 film, abbiamo tre film fuori concorso, due della rubrica che l'abbiamo aggiunta dall'anno scorso, Sa Terra, quindi anche questo in sardo significa la terra. Due film di due registi sardi che parlano delle tematiche un po' simili a quelle della Palestina. Si riferisce alla servitù militare, all'occupazione militare, allo sfruttamento del territorio. E poi abbiamo un film fuori il concorso di una regista palestinese che anche questo è importante e interessante, però siccome la regista fa parte della giuria di questa edizione del festival, quindi il suo film non poteva andare in concorso. Parla di siriani dell'alto del Golan, come la colonizzazione israeliana cerca di strangolare appunto la vita di tutti i giorni di questi arabi siriani drusi sotto l'occupazione sionista dal 67 nell'altore del Golan, per rubare e confiscare le loro terre. Dal programma pare di capire che ci sono vari film sulla Siria in questa edizione. No, ci sono altri film che parlano della Siria, i film parlano del Libano, abbiamo film della Giordania, film dell'Algeria, e quindi quello che abbiamo selezionato sì, sono di varie provenienze sicuramente, perché anche in Siria la situazione di produrre film è abbastanza difficile, perché ne approfitto di ricordare che anche in Siria, in Libano, c'è un embargo di paesi occidentali degli americani che sta strangolando le vite umane da diversi anni. Purtroppo questo non viene riportato anche alla stampa oppure in mezzo di informazione in Europa. Cioè purtroppo c'è questa criminalità, quella del governo occidentale, quella di permettersi di fare embargo contro la Siria, contro il Libano. Non basta la guerra, la devastazione di tutti i giorni, da più di 12 anni a questa parte in Siria c'è anche l'embargo economico. Cioè quello che non riescono a avere gli americani con le guerre, con le devastazioni, cercano di averlo con affamare della gente. Riguardo al tema palestinese, ma anche rispetto alla questione medio orientale nel suo insieme, ormai ci appare chiaro che si tratta di una questione geopolitica. Non si tratta di religioni, non si tratta di razze. Si tratta di poteri che vogliono dominare la politica nei vari territori del pianeta. Ci sono stati negli anni scorsi dei film che hanno affrontato questo argomento, e in questa edizione ce ne sono. Sì, assolutamente, dice bene, il problema non è un problema né religioso né etnico, cioè, no, il problema è prettamente politico. Israele è messa lì come una colonia, colonialismo di insediamento, quello non solo di colonizzare il territorio, ma anche di cacciare via l'abitante, l'indigene, in questo caso i palestinesi. E questo progetto di colonialismo europeo vecchio, facciamo degli esempi negli Stati Uniti d'America, gli inglesi, diciamo anche il colonialismo inglese in particolar modo, che è all'origine del colonialismo sionista in Palestina. Cioè gli Stati Uniti d'America hanno cercato di eliminare fisicamente, di sterminare gli indiani americani, anche Joe Lindos nell'America Latina lo stesso da parte di spagnoli, portoghesi, gli inglesi sempre in Australia, alla origine australiani sono stati praticamente sterminati, e anche Nuova Zelanda, e volevano fare la stessa cosa in Palestina. Però in Palestina c'è un popolo che resiste, che continua a resistere, continua a lottare, nonostante tutte tentative di genocidio, oppure anche della polizia etnica che durano da quasi un secolo, e quindi da più di 75 anni anche prima. E quindi c'è, di fatto, quello che succede lì è proprio un colonialismo di stampo occidentale per accaparrarsi delle risorse del Medio Oriente. Cioè, vecchio colonialismo europeo, poi diventato anche americano, e praticamente hanno sostituito il vecchio colonialismo con un avamposto occidentale in Palestina di popolazione europea di religione ebraica, appunto per controllare le risorse che ci sono nel Medio Oriente, le vie di comunicazione e anche di collegamento. Quello che sta succedendo oggi è assolutamente, entra anche in questa ottica, perché non dimentichiamo che nelle coste palestinesi, e specialmente anche quelle di Gaza, e il mare c'è, cioè, pieno di giacimenti di gas. Israele, cioè, con l'America e l'Europa, cercano anche di strangolare, ecco, anche l'economia dell'Egitto, scavando un nuovo canale, cioè dal Mar Rosso, in questo caso dal Golfo di Aqaba, fino al Mediterraneo, quindi passando per Gaza. E tutte queste politiche e tutte queste visioni e progetti nel futuro le vedono esclusivamente per aumentare il capitalismo, per foraggiare l'imperialismo americano e europeo. Anche in Italia, non dimentichiamo, ultimamente anche nella stampa si parla anche dell'ENI italiana interessata ai giacimenti di petrolio nelle coste di Gaza. Ecco, qui vediamo anche in che direzione va la politica italiana in questo senso. Pare che ultimamente sia aumentata l'ostilità nei confronti degli artisti palestinesi, fino a ostacolare la loro attività e la loro creatività, o la loro stessa sopravvivenza. Le risulta vero? Sì, assolutamente. Questo è stato sempre anche intensificato, quindi, come dicevi, assolutamente negli ultimi mesi, negli ultimi giorni, perché il sionismo ha sempre combattuto la cultura palestinese, perché lo vuole sostituire con una cultura sua, cioè del sionismo, della colonizzazione, e quindi cancellando l'indigene, cancellando i palestinesi, la loro cultura, in questo modo può affermarsi come Stato, come colonia, come lo vogliono chiamare loro. Però penso anche che queste tentative sono anche falliti, perché non sono riusciti a cancellare la memoria e la cultura del popolo palestinese, nonostante tutti i loro tentativi. Per esempio, anche hanno sempre devastato gli archivi, hanno sempre devastato i centri culturali, i centri di studi, anche Giordania, che addirittura anche quando hanno occupato lì Beirut nell'82 l'hanno fatto, e l'hanno fatto anche adesso a Gaza. Hanno distrutto i teatri, hanno distrutto le università, i centri di ricerca e gli archivi, e questa è una dimostrazione che vogliono cancellare proprio la memoria del popolo palestinese. Anche le devastazioni a Gaza in questi giorni, tutto il patrimonio archeologico, non dimentichiamo che Gaza è una città antichissima e ricca di un patrimonio archeologico molto interessante. Abbiamo visto anche nelle passate edizioni anche film fatti su siti archeologici a Gaza. Israele sta distruggendo tutto, come ha distrutto tutto in Cisgiordania, perché sono invasori, occupanti, quindi vogliono cancellare la cultura che esisteva, esiste in quella terra della Palestina, è prodotta da migliaia d'anni dai palestinesi. Allard durerà fino al 24 a Cagliari, ma voi avete poi degli spin-off in Sardegna. Prevedete degli spin-off anche in altre città italiane? Per il momento niente di organizzato, però sì, cioè vediamo di allargare appunto queste spin-off in diverse città italiane. Stanno arrivando anche le richieste, bisogna che ci organizziamo con i registi sicuramente per poter dare più visibilità e più anche diffusione a questi film che passeranno nel festival, e speriamo di avere una collaborazione con diversi soggetti in tutta l'Italia. Forse abbiamo concluso l'intervista. C'è qualcosa che vuole aggiungere? Penso che questa 20ª edizione è un traguardo importante per noi come un'associazione di volontariato che continua a lavorare, e cerchiamo di dare sempre una narrazione vera a quello che è successo, la storia e la vita dei palestinesi. Quindi di fatto noi continuiamo questo lavoro. Invito tutti quanti a anche informarsi da questo punto di vista, a guardare i film che sono prodotti dai registi palestinesi in particolar modo, perché sono delle visioni e narrazioni diverse da quella sionista che è quasi egemone in Europa.